a arrivare i cammisi e mangiamo brudaglia, n'arrivare un monsello a cavare da un scecco senza freno e ne paglia, e scincere bruntise come un ferro a tenaglia, spurtusari vudella ad un povero Cristo in tasta terra bastarda, tasta terra bastarda. Arrivare i cammisi e giuttemo sputazza, di panza purcello scannare un agnello su mangiare un tagliazza, non lasciare una scaglia di sta terra selvaggia, si futtero un paese ziccari bruntisi tutti dintro a Naiargia, tutti dintro a Naiargia. Arrivare i cammisi, stu caudu non passa, sti fidenti lassare ogni casa una croce in un fe di pisciazza, sono tutto castello a braccetto e baruna, con lo causa e camise consumare un paese, e ne misura ognuna, e ne misura ognuna, e ne misura ognuna. Arrivare i camise mentre la fame ne mancia, ammulami cutelle, chiappami rastelle, fracassami già panza, sono chini baruna, chini fine cugliuna, e restare i bruntise senza causa e cammise, maledette cammise, maledette cammise. Arrivare i cammise e stu sangue non staglia, aiutatene Dio a studare stu poco e fermate sta raggia, n'affugamo un tovino pa asciugare dolore, maledette cammise spugliare un paese, ora fanno i pagiona, e ora fanno i pagiona. Terra russa sciaccata, arrostuta du sole, quando figli ammazzaro e intommunizzaro, cento teste iettaro, castigate le Dio, sti fedenti cammise, da sta terra spugnata, bruciata du sole, non ne lasciano un pace, no, non ne lasciano un pace, non ne lasciano un pace, non ne lasciano un pace, no, non ne lasciano un pace, non ne lasciano un pace, non ne lasciano un pace, non ne lasciano un pace, no, non ne lasciano un pace.